Terzo anello, ad alta voce. Lord Jim, di Joseph Conrad. Introduzione di Adriana Cavarero. Giungle, mari del sud, porti orientali, questa è l'atmosfera esotica di Lord Jim e di molti romanzi di Conrad, nobile polacco, ufficiale della marina mercantile britannica che sceglie di scrivere in lingua inglese. Jim non è un lord, è il figlio di un parroco inglese. Il titolo gli viene dato dagli indigeni della giungla malese e c'è ovviamente dell'ironia. Altra ironia riguarda il fatto che Jim, al contrario dei lord, non ha un cognome, anzi ce l'ha, ma noi non veniamo a saperlo perché Jim fa di tutto perché non venga pronunciato. Chi è allora Jim, lord fittizio, dal cognome infamante? È uno di noi, come ripete più volte il narratore, il capitano Marlowe. Sì, proprio Marlowe. Lo stesso narratore che incontriamo in altri romanzi di Conrad e soprattutto nel suo capolavoro indiscusso, Cuore di tenebra. In bocca a Marlowe, uno di noi significa innanzitutto uno di noi bianchi, e in particolare di noi inglesi, che solchiamo i mari e amiamo l'avventura. Noi, uomini coraggiosi, intrepidi e attaccati al dovere, dotati di senso dell'onore e rapidi nell'azione. Noi per i quali il colonialismo ha aperto un altrove da civilizzare e col quale misurarci. Ebbene, in questo senso Jim è uno di noi, o perlomeno appare tale, perché Jim in realtà è un enigma, per se stesso e per il narratore. Il romanzo, e qui sta il suo fascino, ruota interamente su questo enigma. Non vorrei dare l'impressione che l'enigma consista nel solito vecchio gioco fra l'essere e l'apparire, o peggio ancora, fra l'essere e il non essere. Più che ad Amleto, Jim assomiglia, se vogliamo esagerare un po', all'eroe della tragedia greca. Come l'eroe antico, egli è il protagonista di un atto infame che, più che essere il frutto di un'azione consapevole, gli capita. Come succede per l'eroe antico, questo atto diventa il suo destino. Si tratta di un atto davvero disonorevole per un uomo di mare. Ufficiale sul Patna, nel momento del pericolo, Jim abbandona la nave e il suo carico umano di passeggeri indigeni, non bianchi, saltando nella scialuppa, dove già stanno il capitano e altri membri dell'equipaggio, questi sì bianchi, che, da veri codardi, feccia dell'avventurismo coloniale, si sono affrettati a salvare la loro pellaccia. Non scendo nei particolari dell'episodio, sia perché in esso c'è una sorpresa che è ingiusto svelare al lettore, all'ascoltatore, sia perché la narrazione di Conrad, con una tecnica di dilazioni e digressioni, lo costruisce come una specie di giallo giudiziario. Voglio però citare le parole di Jim rivolte a Marlowe a proposito del salto maledetto. «Oh sì, lo so benissimo, sono saltato giù. Certamente, sono saltato giù. Gliel'ho detto che sono saltato giù», egli confessa, ma subito aggiunge, riferendosi a quei codardi che erano già nella scialuppa. «Era opera loro, come se mi avessero tirato giù loro con una gaffa. Capisce? Deve capire!» Ma come si può capire un enigma? Jim non ha nulla che spartire con la bruta animalità dei suoi compagni di scialuppa. Egli è bello nel fisico e nobile nell'anima, onesto e leale, uno di noi. C'è però in lui la macchia, l'ombra, la tenebra del salto maledetto. Come l'eroe greco, se mi permettete di continuare con questa similitudine un po' audace, egli non ne ha colpa, come se fosse una macchia inevitabile, un'ombra oggettiva, una tenebra costitutiva. Un male oscuro, proprio in Jim, lui che è uno di noi. Noi sta appunto qui per occidentali, inglesi, bianchi, colonialisti. Si sa che molti dei testi di Conrad ruotano in modo problematico intorno al tema del colonialismo, di cui Conrad descrive il lato luminoso, verrebbe da dire illuminista, ma soprattutto il cuore di tenebra. Questo è vero anche per Lord Jim. C'è nel libro un primo livello, su cui la faccia buona e quella cattiva del colonialismo si contrappongono in modo elementare, come se fossero perfettamente distinguibili. Da una parte, la parte accettabile dell'avventura coloniale sta Marlowe e altri personaggi positivi del romanzo. Dall'altra parte, quella dello sfruttamento atroce e impresentabile stanno gli animali con cui Jim condivide la scialuppa e altri personaggi negativi e rivoltanti. Il livello fondamentale della contrapposizione fra luce e tenebra è, tuttavia, quello che ha per protagonista proprio Jim stesso. In lui tale contrapposizione diventa una contraddizione in atto, un enigmatico stare insieme di bene e male, di nobiltà e di infamia. Così appunto è per Conrad il colonialismo. Come Jim, esso si porta dentro un male oggettivo, una sorta di macchia originaria che si intreccia col preteso bene della civilizzazione, facendo della mescolanza fra luce e tenebra una nebbia che li fonde e li confonde. E voi sentirete molto parlare di nebbie nel romanzo. È precisamente in questo senso che Jim è uno di noi. Vi lascio a Jim, sempre vestito di bianco, che spicca dalle frequentissime nebbie dei suoi due diversi scenari, gli scenari che compongono la sua storia. Dopo il mare, Singapore e altri porti orientali, viene infatti la terra, la giungla malese, dove Jim approda per sfuggire alla fama della sua disgrazia. Tutto comincia appunto da quel salto maledetto, anche se, come vedrete, nella vita di Jim non era stato il primo e non sarà neanche l'ultimo. Aveva una statura appena al di sotto del 1,80 m. Era di corporatura possente e avanzava diritto verso di voi con le spalle leggermente curve, la testa protesa in avanti e uno sguardo fisso di sottecchi che faceva pensare a quello di un toro che si prepara a caricare. Aveva una voce profonda e forte e il suo comportamento palesava, pur senza alcuna forma di aggressività, una sorta di ostinata riaffermazione del proprio buon diritto. Tutto ciò appariva come una necessità ed era apparentemente diretto a se stesso, non meno che a chiunque altro. Il suo aspetto era impeccabile. Vestito sempre di bianco immacolato, dal cappello alle scarpe, era molto popolare nei vari porti d'Oriente, in cui si guadagnava da vivere come procacciatore d'affari per conto di ditte di forniture navali. Per diventare procacciatori di forniture navali non occorre sostenere esami d'ogni sorta al mondo, ma si deve possedere l'abilità in astratto e dimostrarla nel concreto. Tale attività consisteva nell'arrivare con una barca a vela, a vapore o a remi, al fianco di tutte le navi sul punto di gettare l'ancora prima degli altri procacciatori, nel salutare il capitano con cordialità, nel ficcargli in mano un cartoncino, il biglietto da visita della ditta di forniture navali e infine, la prima volta in cui scende a terra, nel pilotarlo con sicurezza ma senza ostentazione fino a un vasto emporio simile a una caverna, pieno delle cose che si mangiano e bevono a bordo di una nave, dove si può trovare tutto ciò che serve per renderla bella e atta alla navigazione. Dai diversi tipi di ganci per la catena dell'ancora, al campionario di lamine d'oro per gli intagli incisi a poppa, e dove il comandante è ricevuto come un fratello da un fornitore marittimo che non hai mai visto prima. C'è un salottino fresco, ci sono poltrone, bottiglie, sigari, l'occorrente per scrivere, una copia del regolamento portuale e un'accoglienza così calorosa da togliere dal cuore di un marinaio tutta la salsedine accumulatasi in 3 mesi di navigazione. I rapporti così stabiliti vengono mantenuti finché la nave rimane in porto attraverso le visite quotidiane del procacciatore. Verso il capitano, egli ha la fedeltà dell'amico e le attenzioni del figlio, oltre alla pazienza di Giobbe, alla devozione disinteressata della donna e alla giovialità del buon compagno. Più tardi arriverà il conto. È un mestiere bellissimo e umano. Ed è per questo che i buoni procacciatori d'affari scarseggiano. Quando uno di loro, oltre a possedere in astratto l'abilità richiesta per esercitare questo mestiere, ha anche il vantaggio di aver prestato servizio sulle navi, il suo padrone è disposto a pagarlo bene e a trattarlo con deferenza. Jim ebbe sempre buone paghe e principali pronti ad assecondarne gli estri e i capricci. Ciò nonostante, dando prova di profonda ingratitudine, spesso piantava il lavoro e partiva. Ai suoi padroni i motivi che adduceva parevano naturalmente inadeguati. «Maledetto stupido!» gli ringhiavano dietro non appena aveva girato le spalle. Questa era la loro reazione alla sua squisita sensibilità. Per i bianchi che lavoravano nei porti e per i capitani delle navi, lui era solo Jim, null'altro. Naturalmente aveva anche un cognome, ma faceva di tutto per evitare che fosse pronunciato. Questa corazza di riservo, che in realtà presentava larghe crepe, non aveva lo scopo di proteggere una personalità, ma di nascondere un fatto. E quando questo filtrava, egli lasciava improvvisamente il porto nel quale si trovava e andava in un altro, di solito più a destra del precedente. Rimaneva nei porti perché era un marinaio che aveva abbandonato la navigazione perché possedeva l'abilità in astratto che avrebbe potuto sfruttare solo per il mestiere di procacciatore d'affari per conto di ditte di forniture navali. Si ritirava in buon ordine sempre più verso Levante e il fatto lo seguiva, casualmente ma inevitabilmente. E così nel corso degli anni lo conobbero successivamente a Bombay, a Calcutta, a Rangoon, a Penang, a Batavia, E in ognuna di queste località era solo Jim, il procacciatore di forniture navali. In seguito, quando la sua acuta percezione dell'intollerabile lo allontanò per sempre dai porti e dai bianchi, spingendolo all'interno della foresta vergine, i malesi del villaggio in mezzo alla giungla in cui aveva deciso di celare il suo inconfessabile segreto aggiunsero una parola al monosillabo del suo incognito. Lo chiamarono Tuan Jim, come dire, ovvero Lord Jim. Aveva trascorso i primi anni della sua vita in una parrocchia anglicana. Molti comandanti di importanti navi mercantili provengono da queste dimore della fede e della pietà religiosa. Il padre di Jim aveva quel tanto di conoscenza dell'inconoscibile che bastava a promuovere le virtù nelle case dei contadini senza turbare la tranquillità spirituale di coloro cui la provvidenza aveva concesso di vivere nelle ville signorili. La chiesetta sulla collina aveva il colore grigio e muschioso di una roccia vista attraverso una frastagliata cortina di foglie. Era lì da secoli, ma gli alberi che la circondavano ne ricordavano probabilmente la posa della prima pietra. Sotto, la facciata rossa del rettorato spiccava con la sua tinta vivace in mezzo a prati erbosi, aiuole e abeti, cui si aggiungevano un frutteto dietro la casa, un cortile lastricato alla sua sinistra e il vetro spiovente del tetto delle serre appoggiate a un muro di mattoni. Quel beneficio apparteneva alla famiglia da generazioni, ma Jim era uno dei 5 figli maschi e quando dopo alcune letture estive d'evasione emerse con chiarezza la sua vocazione per il mare, fu subito mandato a una nave scuola per ufficiali della marina mercantile. Qui imparò un po' di trigonometria e come incrociare i pennoni dei velacci. Era generalmente ben voluto. Durante la navigazione occupava il posto di terzo ufficiale ed era il capovoga della prima lancia di bordo. La sua testa eretta e il suo splendido fisico spiccavano eleganti sull'alberatura. La sua posizione era sulla coffa di trinchetto, da cui spesso osservava, con la superiorità dell'uomo destinato a distinguersi nei pericoli, la pacifica moltitudine dei tetti tagliati in due dalla corrente scura del fiume, mentre isolate ai margini della pianura circostante le ciminiere delle fabbriche si levavano dritte contro un cielo grigio, esili come matite che come vulcani eruttavano sbuffi di fumo. Vedeva le grosse navi che si allontanavano, i panciuti traghetti in continuo movimento, le imbarcazioni piccole che fluttuavano remote ai suoi piedi, con lo splendore velato del mare in lontananza e la speranza di una vita esaltante nel mondo dell'avventura. Sotto coperta, nella babele di centinaia di voci, si lasciava trasportare dalle fantasticherie e riviveva nella mente le imprese della letteratura d'evasione. Si vedeva impegnato a salvare persone da navi che affondavano, a segare alberi durante gli uragani, a nuotare sulla cresta di un'onda con l'aiuto di una sagola. Oppure si immaginava camminare seminudo e scalzo, unico superstite di un naufragio su scogli battuti dai venti alla ricerca di crostacei per sfamarsi. Affrontava selvaggi su spiagge tropicali, soffocava mutilamenti in alto mare e sollevava gli spiriti di uomini in preda alla disperazione su piccole scialuppe sballottate nell'oceano, costante esempio di attaccamento al dovere, intrepido, come un eroe da romanzo. Thank you. Dopo 2 anni di addestramento ebbe il suo primo imbarco ed entrando in regioni così familiari alla sua immaginazione scoprì che erano stranamente povere di avventure. Fece molti viaggi. Conobbe la magica monotonia dell'esistenza fra il cielo e l'oceano. Dovette sopportare le critiche degli uomini, il rigore del mare e la prosaica durezza delle fatiche quotidiane che danno il pane e il cui solo premio è la soddisfazione per il lavoro ben fatto. Questo premio gli mancò e tuttavia non poteva tornare indietro perché non c'è nulla che esalti, deluda e avvinca più della vita di mare. Inoltre aveva davanti a sé buone prospettive. Era cortese, equilibrato, docile e sapeva bene quali fossero i suoi compiti. Con il passare del tempo diventò, ancora molto giovane, primo ufficiale di una bella nave, senza che neppure una volta fosse stato messo alla prova da quegli eventi del mare che mostrano in piena luce il vero valore di un uomo, lo spessore del suo carattere, la solidità della sua tempra, che rivelano la sua capacità di resistenza e la segreta verità oltre le apparenze non solo agli altri, ma anche a lui stesso. Solo una volta in tutto questo tempo ebbe una visione dell'estrema serietà della furia del mare. È una verità molto meno evidente di quanto la gente possa pensare. Ci sono molti gradi di rischio nelle tempeste e nelle avventure, e solo di tanto in tanto emerge dalla superficie dei fatti una sinistra intenzionalità di violenza, quel qualcosa di indefinibile che si impone alla mente e al cuore dell'uomo e gli fa capire che questo concatenamento di incidenti, questa furia degli elementi, sono diretti deliberatamente contro di lui, con uno scopo maligno, con una virulenza incontrollabile, con una crudeltà senza limiti, che vuole strappargli la speranza e la paura, il dolore della fatica e la bramosia del riposo. E questo significa frantumare, distruggere, annientare tutto ciò che egli ha visto, conosciuto, amato, goduto o odiato, tutto ciò che non apprezzo e che è necessario, la luce del sole, i ricordi, il futuro. E questo significa spazzar via del tutto dai suoi occhi questo prezioso mondo, con il semplice e terribile atto di togliergli la vita. Colpito dalla caduta di un'antenna all'inizio di una settimana, di cui in seguito il suo capitano scozzese soleva dire «Accidenti, è un miracolo che la nave ce l'abbia fatta», Jim passò diversi giorni supino, immobile, intontito, disperato e tormentato, come se si trovasse sul fondo di un abisso di inquietudine. Di come sarebbe andata a finire non si preoccupava e nei momenti di lucidità sopravvalutava questa indifferenza. Quando non lo si vede, il pericolo ha la vaga indeterminatezza del pensiero umano. La paura diventa una sensazione indistinta e l'immaginazione, la grande nemica dell'uomo e la madre di tutti i terrori, si perde, priva di stimoli, nel grigiore delle emozioni passate. Jim non vedeva altro che il disordine della sua ondeggiante cabina. Giaceva lì, ben rinchiuso in quella sua piccola devastazione, contento in cuor suo di non dover salire sul ponte. Tuttavia, di tanto in tanto, un incontrollabile trasalimento di angoscia lo scuoteva fisicamente, facendolo ansimare e dimenare fra le lenzuola. E allora l'ottusa brutalità di un'esistenza vulnerabile alle fitte di simili sensazioni lo riempiva di un desiderio disperato di fuggire ad ogni costo. Poi tornò il bel tempo e a quell'episodio non pensò più. Ad ogni modo era rimasto zoppo e quando la nave arrivò in un porto dell'Oriente dovette andare in ospedale. La sua ripresa fu lenta e ripartirono senza di lui. Thank you.